Allora, capa, bisogna spiegare perché qui se no non si capisce più niente. Adesso chiedo asilo, non è più chiedo asilo, ma chiedo asilo ABC. C'è un appendice ABC, vuol dire qualcosa, sì, quell'ABC lì, sì, giusto? Sì, vuol dire l'alfabeto, vuol dire alfabetizzare i nostri ascoltatori, i nostri bambini. Noi dobbiamo fare i professori, ormai è così, l'asilo si è così espanso che dobbiamo insegnare ai nostri ascoltatori. E abbiamo pensato questa specie di enciclopedia sonora, una specie di abecedario sonoro del mondo. Enciclopedia è una cosa che non si usa più tanto. Noi abbiamo pensato allora, vabbè, di tornare, a tornare all'attualità. Come dei nuovi biberon e camembert. Ecco, vabbè, biberon e camembert. Adesso voglio dire, bambino Alberto. Biberon e camembert. E d'Alembert. Diderot e d'Alembert, bambino giusto? Alberto, cosa vuoi giusto, che camembert, sì, ho capito. Vabbè, lasciamo perdere. Quindi, sì, bambino Alberto, oggi ti spiegheremo una nuova parola. Contento? Sì. Ogni giorno sarà così, quindi abituati. Sì. E poi alla fine ti chiediamo cosa hai capito della parola che ti abbiamo spiegato. La parola verrà selezionata attraverso questa ruota della letterona, che era meglio la routine della letterina, visto che le letterine mi evocano immagini, cioè, c'è la selezione, però questa ruotona l'ho personalmente collegata a questo abecedario elettronico che tutti ricorderete essere forse il primo, il grillo parlante della grillo, Texas, non so, Instruments. Sono parole che non si possono dire forse in par condicio, però noi diciamo comunque grillo parlante, questo qua, quello che faceva ripeti e premi controllo, altro che Diderot e Dalla. Adesso noi giriamo la ruota sì, collegata al grillo selezionerà una lettera e di conseguenza una parola che noi andremo a descrivere attraverso canzoni, suggestioni musicali e no. Cioè, non ho mica capito. Allora, vai, fai girare la ruota, bambino Alberto, dai. S. Sasso. S come? Sasso. Ha detto sasso. Non ha detto sesso con la larga, perché grillo, essendo genovese, ma magari il grillo. No. Te lo faccio risentire. Sì, va bene, dai. Ripeto. S. Sasso. No, no, sasso. S come sasso. Sasso, allora è un. Cos'è? Mineralogia, no? Geologia. Ai bambini piace. Piace molto la geologia ai bambini. Me lo piace? La geologia? Vabbè. In che senso? Vabbè, allora. No, ma dobbiamo fare qualcosa di un po' più attuale. Sì, se no, perché non sasso non va bene. Non solo. Sorbetto non va bene perché è inverno. Sorbetto. Non so, con la S cosa c'è? Sogliola. Non è che sia una gran parola. Ma sogliola. Piuttosto, no, ci sono, per esempio, i saldi. S come saldi. Sì, è vero, i saldi ci sono. Grande attualità. A gennaio ci sono i saldi, però sarà 150 anni che a gennaio ci sono i saldi e tutti gli anni. Vabbè, alla radio, la TV, d'accordo, i giornali parlano delle stesse cose. Tutti gli anni i alla prezzi, radio, la non TV i prezzi. Avevano come io i trucchetti che la Federconsumatori e Adusbef. Ma cosa stai dicendo? Adusbef. Hanno suggerito. Saranno sicuramente all'ascolto. Vogliamo salutarli. Salutiamo. Ciao Adusbef. Va bene. Ecco, adesso Adusbef e Federconsumatori hanno distribuito dei trucchetti per non farsi fregare dai saldi. Vai su internet, Drago, c'è il decalogo con una montagna tutti proprio. Tutti non avrai altro dio, no. Un altro. Trucchi per non farsi fregare. Ad esempio, quei negozi che riempiono le loro vetrine con quei cartelli, quei manifesti che non si vede dentro. Bravo, che non si vede dentro. Quelli lì sono negozi da evitare. Perché? Ma sai che devi evitare un negozio che ti dice svendo tutto a zero, questa offerta è irripetibile. Don't send any money. The fate has no price. Ignore at your peril his splendid advice. An invaluable link and an infinite chain. An offer like this will just not come again. Guaranteed at a price that is almost unbeatable. This offer is unrepeatable. Your troubles will vanish, your tears will dry, your blessings will just multiply. Guaranteed at a price that is almost unbeatable. This offer is unrepeatable. Guaranteed to bring fortune and favor, a riot of colors and flavors. Guaranteed at a price that is almost unbeatable. This offer is unrepeatable. Questa offerta è irripetibile. Ma ho capito, ma musica classica di gente morta, ma capa, dai. Elvis Costello, mica è morto. Vabbè, ho capito, ma questo marketing un po' cheap dei saldi che fanno tutti i negozi, anche i negozi più modesti, marketing un po' cheap, sì, perché devono inventare qualcosa per attirare la clientela, eccetera. A me io non mi fido, e poi oltretutto i saldi li fanno su dei beni come i vestiti, che al giorno d'oggi sono un lusso, perché non è che uno si compra il piumino nuovo, il piumino se l'è già comprato l'anno scorso e si tiene quello dell'anno scorso. E allora cosa dovrebbero fare? Dovrebbero fare i saldi sui beni veramente utili, tipo, non so, l'olio. No? Come l'olio? L'olio, la benzina. Pensa che bello i saldi sulla benzina, 50%. Ah, ma l'olio della macchina. Certo, e anche, non so, il liquido dei tergicristalli, sconto 70%, tanto voglio dire, non è ma così utile. Ma sei sempre dal benzinaio. Ma allora, scusa, cosa dovrebbero fare i saldi sui gelati? Perché sul no? Pane? Ecco, ad esempio. I saldi sulla pizza? Sulla pizza? Ciao amico, prendi qualcosa? Vieni amico, vieni a mangiare pizza? Prendi pizza, tranquillo, oggi è giorno dei saldi, capito? Saldo di stagione, perché tu oggi prendi una pizza, prendi pizza con ragazza, vieni qui, tranquillo, metti in terra Dubai, vai tranquillo con amici, tutti quanti, prendi pizza, che però paghi una volta, che però paghi per due, capito? Perché tagli pizza, due pezzi di pizza, e diventano due pizze, capito? Due pizze, se tu vuoi venire anche con tuo figlio, tranquillo, vieni con tuo figlio, prendi due pizze, tagli per tre, paghi tre pizze, capito? Poi dopo se fa giro, tranquillo, prendi bocaccia, se prendi brioche, non c'è problema, vuoi prendere ciupa ciupa, regala anche ciupa ciupa, no problema, basta che tu paghi di pizza tre volte quelle che costi una, perché di getto il saldo non c'è. Quando tu tagli pizza, tagli per due, una pizza vale due, perché tu mangi due bocca, capito? Non è una bocca, vuole due bocche, paghi tre volte con bambino, capito amico? E porti via anche il foulard, capito? Metti pizza dentro il foulard e dopo usi come tovaglia. Ma quale pizza? Ma vabbè, quale pane, olio, benzina? Beni primari. Ma il bene primario è l'amore, Drago. Vabbè, ma mica si vende l'amore. Sull'amore nessuno che faccia mai uno sconto. Puoi sporcare di rossetto i miei jeans di marca. Sarò un video per te. Se mi sintonizzi bene. Banca, puoi incassare l'assegno. Fanno il 2 per 1. Ma il tempo è limitato. Schiaccia il mio bottone. Fai uscire il toast. Soldi e amore. Tutti mischiati. Qui c'è l'amore. Vieni a provarlo. Vendi amore. Io ci provo, se qualcuno vuole, io sono qui. Costa tanto. Un po' di amore, così. Dovresti pagare tu, Drago. Platonico, però. Vabbè. Bambino Alberto, adesso, qui bisogna fare il punto della situazione. Allora, noi stiamo insegnando delle parole e tu dovresti averle imparate. Allora, saldi. Oggi abbiamo parlato di saldi. Definiscici saldi. Saldi, saldi, cioè. Io lo so, io vado sempre ai saldi. Oh, allora, vai sempre ai saldi. Tutti gli anni è un avvenimento, vado con mio papà ai saldi perché è divertentissimo. Bene, certo. Perché certo. Si va a comprare soprattutto robe di abbigliamento, no? Capi, sì, di abbigliamento, certo. Per sì. Me, no? Sì. Giacche, camicie, pantaloncini, golfini, no? Sì, sì. Vai lì, no? Puoi comprare un sacco di roba e non si paga niente, no? Vabbè, non si paga niente. Tra l'altro. No, come non si paga? Cioè, aspetta. Tra parentesi, non si fa neanche la fila. Ma capito? Vabbè, a me risulta che ci sono file chilometriche, sì. E che qualcosa si paga, insomma, allora, ci sarà lo sconto del 30%. Certo, se prendi una roba normale, ma sì. Per esempio, vedi questo piumino che c'ho addosso, no? Sì. Cioè, l'ho preso ieri in saldo, no? Sì. Bello, no? Sì. Peccato che c'ha un difetto, no? Lo vedi qui sulla spalla? C'è questa specie di pinza di plastica, no? Che non viene via, che. È quello un difetto, secondo te? È grande, no? Poi dà fastidio. Scusa, ma quella lì è la pinza antitaccheggio. Quella che, sì, quella che poi suona l'allarme quando esci. Esatto, perché, suona, che è quello il difetto, no? È quello il difetto. Se no uno deve pagare per una roba di plastica che mi dà fastidio. Ho capito perché è gratis. È come una specie di uncino infilato nella clavicola, no? E poi suona, anche quando vado al supermercato. Suona anche lì. è fatto apposta perché vuole impedire che gente come te e tuo padre rubi, esatto, la merce dai negozi. A rubare, siamo già a rubare. Non pagare merce fallata, difettosa, quello sarebbe rubare. A parte che se fosse anche rubare, è divertente, no? It's fun to steal. È divertente rubare, no? It's fun to break your heart. È vero, rubare, cioè. It's fun to steal. It's fun to break a heart. It's fun to steal. È divertente rubare, dai. Ma questi qua sono dei, allora lei non lo sa, non li hanno, non l'hanno informato, sono dei merce difettosa, no? Che c'è la piastra adesso arriva, eh. Chiami la miniera. No, no, chiamo mio papà, adesso sta arrivando lì. Adesso io intanto vado. ABC! Un programma di Cappa e Drago. E ci risentiamo domani con una nuova lettera, una nuova parola. Ma ricordatevi che i saldi sono i saldi, ma sono meglio i soldi. ABC.